ad alta voce. Corrado Guzzanti legge Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov. Sesta puntata. Evidentemente lo sfacelo economico non era poi così terribile. Suo malgrado, due volte al giorno, le fisarmoniche grigie sotto al davanzale si colmavano di calore e il tepore a ondate si diffondeva per tutto l'appartamento. Era chiarissimo. Il cane aveva estratto il biglietto vincente della lotteria canina. Adesso, non meno di due volte al giorno, i suoi occhi si riempivano di lacrime di gratitudine per il saggio di via Prečinstenska. Oltre a ciò, tutte le specchiere del salotto e della sala d'aspetto riflettevano tra gli armadi l'immagine di un bel cane fortunato. «Io sono una bellezza, forse un ignoto principe canino in incognito», ragionava, guardando il cane irsuto color caffè dal muso compiaciuto che scorrazzava nelle remote lontananze degli specchi. «È molto probabile che mia nonna abbia commesso qualche peccatuccio con un Terranova. Se guardo bene sul muso vedo una macchia bianca. Ci si potrebbe chiedere da dove salti fuori. Filippo Filippovich è un uomo con un gran buon gusto. Non si sarebbe preso in casa il primo bastardo che gli capitava tra i piedi». Nel corso di quella settimana il cane ingurgitò tanto cibo quanto ne aveva mangiato per la strada in quell'ultimo mese e mezzo di fame. Ma naturalmente solo per quel che riguardava la quantità. Non era infatti nemmeno il caso di parlare della qualità del cibo di Filippo Filippovich, anche senza considerare che ogni giorno Daria Petrovna comprava un mucchio di avanzi di carne al mercato di Smolensk per un totale di 18 copeche. È sufficiente menzionare i pasti delle 7 di sera in sala da pranzo, ai quali, nonostante le proteste della graziosa Zina, il cane continuava a essere presente. Nel corso di questi pasti, Filippo Filippovich ricevette definitivamente il titolo di divinità. Il cane si metteva sulle zampe posteriori e gli mordeva la giacca. Aveva imparato a riconoscere la scampanellata di Filippo Filippovich, due sonori colpi ben staccati, da padrone, e con un latrato volava ad accoglierlo in anticamera. Il padrone di casa faceva irruzione con la sua volpe argentata, scintillando di milioni di cristalli di neve, emanando odore di mandarini, sigari, profumo, limoni, benzina, acqua di colonia, panno, e la sua voce, come la tromba del comando, si diffondeva per tutta l'abitazione. «Perché mai, maiale, hai fatto a pezzi la civetta? Ti dava fastidio? Ti dava fastidio, chiedo? Perché hai rotto il professor Mečnikov?» «A questo qui, Filippo Filippovich, bisogna almeno una volta suonargliele con la frusta», diceva Zina sdegnata, «altrimenti diventerà davvero viziato. Guardi lei stesso che ha combinato con le sue calosce». «Mai picchiare nessuno», s'agitava Filippo Filippovich. «Ricordatelo una volta per tutte, sull'uomo e sull'animale è possibile agire solo con la persuasione. Gli è stata data la carne oggi?» «Signore santo, si è divorato l'intera casa. Perché lo chiede, Filippo Filippovich? Mi stupisco che non scoppi. Beh, che mangi e che stia bene. Che fastidio ti dava la civetta, teppista?» Digrignava i denti il cane leccapiedi e strisciava sul ventre allungando le zampe. Quindi, con gran baccano, lo trascinarono per la collottola attraverso la sala d'aspetto fino allo studio. Il cane ululava, mostrava i denti, s'aggrappava al tappeto, indietreggiava come in un circo. Nel mezzo dello studio, sul tappeto, giaceva la civetta dagli occhi vitrei con il ventre squarciato, dal quale sporgevano certi stracci rossi che puzzavano di naftalina. Sulla scrivania c'era la fotografia rotta in mille pezzi. «Non ho riordinato a bella posta perché potessi ammirare pure lei», stava finendo di relazionare Zina desolata. «È saltato sulla scrivania la canaglia, l'ha pigliata per la coda e zac! Non ho fatto in tempo a riavermi che l'aveva fatta a pezzi. Gli ficchi il muso dentro alla civetta, Filippo Filippovich, che impari a rovinare le cose». Ed ebbe inizio la baraonda. Il cane, che era come incollato al tappeto, fu trascinato per essere ficcato col muso dentro la civetta. Colché gli occhi del cane si colmarono di lacrime amare e questi pensò: picchiatemi pure, ma non scacciatemi dall'appartamento. Portare la civetta dall'impagliatore oggi stesso. Inoltre, eccoti 8 rubli e 16 copeche per il tram. Fa un salto ai grandi magazzini, compragli un buon collare con la catena. Il giorno successivo al cane fu messo un grosso collare lucente. In un primo momento, guardandosi allo specchio, ci rimase molto male. Mise la coda tra le zampe e se ne andò in bagno, riflettendo su come liberarsene sfregandolo contro un baule o una cassa. Ma in breve si rese conto di essere semplicemente uno sciocco. Zina lo portò a passeggio, tenendolo alla catena. Il cane si avviò per vicolo Abukov come un detenuto, bruciando di vergogna. Ma mentre percorreva via Przyszynska fino al Tempio di Cristo, capì perfettamente cosa rappresentasse un collare nella vita. Negli occhi di tutti i cani che incontrava si leggeva un'invidia furiosa e in un vicolo uno spilungone di cane da guardia con la coda mozza gli abbaiò contro chiamandolo «servo di boiardi» e «leccapiedi». Quando attraversarono i binari del tram, un poliziotto guardò il collare con sollievo e rispetto e quando fecero ritorno si verificò la cosa più inaudita. L'usciere di propria mano aprì la porta d'ingresso e fece entrare Sharik. Nel far ciò rivolse a Zina queste parole: guarda un po' che bestia irsuta si è messo in casa Filippo Filippovic, ed è incredibilmente grasso. Ci mancherebbe, mangia per 6, spiegò Zina, resa bella e colorita dal freddo. Un collare è come una cartella di pelle, ironizzò mentalmente il cane, e dimenando il posteriore proseguì verso il piano nobile come un gran signore. Dato al collare il suo giusto valore, il cane fece la sua prima visita al reparto principale del paradiso, il cui ingresso fino a quel momento gli era stato categoricamente precluso, e precisamente al regno della cuoca Daria Petrovna. L'intero appartamento non valeva 2 palmi del regno di Daria. Ogni giorno sul fornello, annerito in alto e rivestito di piastrelle, scoppiettava e infuriava la fiamma. Il forno crepitava. Tra colonne di vapore purpureo, il volto di Daria Petrovna ardeva di eterno tormento infuocato e passione inestinguibile. Era lucido e grondante grasso. Nella pettinatura alla moda, con i capelli biondi che coprivano le orecchie e formavano una treccia sulla nuca, splendevano 22 brillanti artificiali. Sulle pareti, appese a dei ganci, c'erano le pentole. Tutta la cucina rombava, gorgogliava e sfrigolava di odori e rumori provenienti da recipienti coperti. «Fuori!» si mise a strillare Daria Petrovna. «Fuori, ladruncolo di strada! Ci mancavi solo tu qua dentro! Adesso prendo l'attizzatoio!» «Che ti piglia? Che hai da abbaiare?» Il cane socchiuse teneramente gli occhi. «Che ladruncolo di strada sarei mai io? Non ha forse notato il collare?» E di sbieco oltrepassò la porta, infilandoci dentro il muso. Il cane Sharik possedeva il segreto di soggiogare i cuori degli uomini. Nel giro di 2 giorni già se ne stava sdraiato accanto alla cesta del carbone, a guardare Daria Petrovna che lavorava. Con un coltello sottile e appuntito, essa tagliava teste e zampe a pernici indifese. Quindi, come un boia furioso, staccava la polpa dagli ossi, strappava le viscere ai polli, macinava qualcosa nel tritacarne. Sharik, in quel frattempo, sbranava una testa di pernice. Da una scodella, Daria Petrovna tirava fuori dei pezzetti di panino inzuppato nel latte, li mescolava al trito di carne sulla tavola di legno, bagnava il tutto con la panna, ci metteva il sale e sul fornello dava forma alle polpette. Nel fornello il fuoco rombava come un incendio e nella padella era tutto un soffriggere, un gonfiarsi di bollicine, un saltellare. Lo sportellino si apriva di scatto con rumore di tuono, rivelando un terribile inferno. Era tutto un gorgogliare, un dilagare di suoni e scintille. A sera si spegnevano le fauci di pietra. Nella finestra della cucina, sopra la mezza tendina bianca, c'era la notte densa e solenne di via Przyszynska, con una stella solitaria. In cucina il pavimento era umido, le casseruole risplendevano di luce pallida e misteriosa. Sul tavolo era appoggiato un chepì da pompiere. Sharik se ne stava ai piedi della cucina tiepida come un leone accanto a un portone e, sollevato un orecchio per la curiosità, osservava un uomo eccitato dai baffi neri con un'ampia cintura di pelle che, al di là della porta socchiusa della stanza di Zina e Daria Petrovna, abbracciava Daria Petrovna. Il volto di quest'ultimo ardeva di tormento e passione, tutto quanto tranne il naso incipriato di un pallore mortale. Una striscia di luce si posava sul ritratto di un uomo dai baffi neri a cui era appesa una rosa pasquale. «Ti sei attaccato come un demone!» mormorava Daria Petrovna nella penombra. «Smettila! Adesso arriverà Zina, che ti piglia? Hanno ringiovanito pure te!» «Non ce n'è nessun bisogno!» rispose con voce roca il nero baffuto, controllandosi a stento. «Lei è così focosa!» La sera la stella di via Prešinskaja s'occultava dietro a tendaggi pesanti e se al teatro Bolshoi non davano la Ida e non c'erano nemmeno riunioni della società panrussa di chirurgia, la divinità s'accomodava in poltrona. Non c'era luce sotto al soffitto, ardeva solo una lampada verde sulla scrivania. Sharik se ne stava disteso sul tappeto, nell'ombra, e senza distogliere lo sguardo guardava cose terribili. In una ripugnante brodaglia acre e torbida contenuta in recipienti di vetro c'erano cervelli umani. Mani e braccia della divinità, denudate fino ai gomiti, erano coperte da fulvi guanti di gomma e le tozze dita scivolose si davano un gran fare tra le circonvoluzioni cerebrali. Di tanto in tanto la divinità si armava di un minuscolo bisturi lucente e piano piano tagliava i cervelli gialli ed elastici. Del nero sacro lido, canticchiava piano la divinità mordicchiandosi le labbra e rammentando l'interno dorato del teatro. A quell'ora i tubi del riscaldamento raggiungevano il massimo calore che si sollevava fino al soffitto e da lì si diffondeva per tutta la stanza. Nella pelliccia canina si risvegliava l'ultima pulce che lo stesso Filippa Filippovic non era ancora riuscito ad estirpare, ma che era ormai condannata. I tappeti attutivano i suoni dell'appartamento e poi in lontananza si levava il tintinnio della porta d'ingresso. Zinka è andata al cinema, pensava il cane, e appena torna si cenerà. Posso supporre che a cena ci saranno costolette di vitello. Ed ecco che quel terribile giorno, fin dal mattino, Sharik fu tormentato da un presentimento. Di conseguenza all'improvviso provò una gran tristezza e la colazione mattutina, mezza ciotola d'avena e un ossicino di montone del giorno prima, se la mangiò senza il minimo appetito. Annoiato si aggirò per la sala d'aspetto e guaì debolmente alla volta della propria immagine riflessa. Ma nel pomeriggio, dopo che Zina l'ebbe portato a passeggio sul boulevard, la giornata trascorse come al solito. Quel giorno non venivano ricevuti pazienti in casa perché, come è risaputo, il martedì non si riceve e la divinità se ne stava nello studio con aperti sul tavolo certi tomi ponderosi con illustrazioni colorate. Attendevano il pranzo. Il cane si sentiva piuttosto ravvivato dal pensiero che quel giorno, come terza portata, cosa di cui era venuto a conoscenza per certo in cucina, ci sarebbe stata della tacchina. Passando per il corridoio, il cane sentì che nello studio di Filippa Filippovic suonava sgradevolmente e in modo del tutto inaspettato il telefono. Filippa Filippovic sollevò la cornetta, rimase in ascolto e all'improvviso prese ad agitarsi. «Perfetto!» si udì la sua voce. «Lo porti qui immediatamente! Immediatamente!» Cominciò a darsi da fare, suonò e quando Zina entrò le ordinò di servire il pranzo senza indugio. «Il pranzo! Il pranzo! Il pranzo!» In sala subito si levò il rumore di piatti. Zina si mise a correre. Dalla cucina si sentì Daria Petrovna che brontolava perché la tacchina non era ancora pronta. Il cane di nuovo provò un senso di inquietudine. «Non mi piace che l'appartamento sia sottosopra», meditava. E appena l'ebbe pensato, quel sottosopra assunse un carattere ancor più sgradevole. e soprattutto grazie alla comparsa di colui che una volta era stato azzannato, il dottor Bormental. Questi portava con sé una valigia maleodorante e senza nemmeno togliersi il cappotto si precipitò trascinandola attraverso il corridoio fino all'ambulatorio. Filippo Filippovic depose la tazza di caffè ancora piena, cosa che non gli capitava mai di fare, corse incontro al dottor Bormental, cosa che pure mai faceva. «Quando è morto?» gridò. 3 ore fa», rispose Bormental, senza cavarsi il cappello coperto di neve e allentando le cinghie della valigia. «Chi mai sarà morto?» pensò il cane incupito e insoddisfatto, e s'andò a ficcar loro tra i piedi. «Non sopporto quando si agitano in questo modo». «Levati dai piedi! Presto, presto, presto!» si mise a gridare Filip Filippovic a destra e a manca e si diede a suonare tutti i campanelli, o perlomeno così sembrò al cane. Accorse Zina. «Zina! Daria Petrovna al telefono! Non si riceve nessuno! Tu ci servi, dottor Bormental! La supplico! Presto, presto!» «Non mi piace, non mi piace!» Il cane si rabbuiò offeso e cominciò a bighellonare per l'appartamento mentre tutto l'affaccendarsi si concentrava nell'ambulatorio. Zina apparve inaspettatamente con indosso un camice che sembrava un sudario e cominciò a volare dall'ambulatorio alla cucina e viceversa. «E se mi mangiassi qualcosina? Che vadano all'inferno!» decise il cane e all'improvviso si ritrovò davanti a una bella sorpresa. «Non dare niente da mangiare a Sharik!» tuonò l'ordine dall'ambulatorio. «Tienilo d'occhio che non mangi! Rinchiuderlo!» E Sharik venne attirato e chiuso in bagno. «Che maleducazione!» pensò Sharik seduto nella penombra della stanza da bagno. «Che sciocchezza!» E per quasi un quarto d'ora se ne rimase nel bagno in una strana disposizione di spirito che passava dalla rabbia a una sorta di sconforto opprimente. Tutto era triste, poco chiaro. «D'accordo, egregio Filip Filippovic, domani avrò le sue calosce», pensava. «Le è già toccato comprarsene 2 paia. Si comprerà anche il terzo, così imparerà a rinchiudere i cani». Ma all'improvviso lo colpì un pensiero furioso. Per un qualche motivo, in modo inatteso e chiaro, gli venne in mente un frammento della sua prima giovinezza. Un immenso cortile assolato, schegge di sole nelle bottiglie, mattoni frantumati, liberi cani vagabondi. «No, dove pensi d'andare? Per nessuna libertà al mondo te ne andresti da qui. Perché mentire?» si doleva il cane stronfiando. «Ormai sei abituato, sono il cane di un barin, una creatura intellettuale, ho gustato una vita migliore. E poi, che cos'è la libertà? Così, un fumo, un miraggio, una finzione, il delirio di questi disgraziati democratici». Poi la semioscurità del bagno divenne terribile. Il cane si mise a ululare, si buttò contro la porta, cominciò a graffiarla. Si sparse in volo per tutto l'appartamento come in una botte. «Farò di nuovo a pezzi la civetta», pensò il cane furibondo, ma impotente. Quindi perse le forze, si accucciò e quando tornò ad alzarsi il pelo gli si rizzò perché nel bagno erano balenati ripugnanti occhi lupeschi. E nel bel mezzo del suo tormento la porta si spalancò. Il cane uscì scrollandosi e caracollò con aria tetra verso la cucina, ma Zina per il collare lo trascinò decisa nell'ambulatorio. Al cane si raggelò il cuore. «Perché mai hanno bisogno di me?» pensò il cane insospettito. «Il fianco si è cicatrizzato. Non ci capisco niente». E s'avviò con le zampe che scivolavano sul parquet e così fu condotto nell'ambulatorio. E lì d'un tratto fu colpito da una illuminazione mai vista prima. Un globo bianco appeso al soffitto risplendeva al punto da fare male agli occhi. In quel bianco splendore si ergeva un sommo sacerdote che a bocca chiusa cantava del sacro lido del Nilo. Soltanto da un vago sentore si poteva riconoscere in lui Filip Filippovic. La sua canizia ben tagliata era occultata da un bianco berretto a cono che ricordava la calotta di un patriarca. Il sommo sacerdote era tutto vestito di bianco e sopra il bianco, come una pianeta, indossava uno stretto grembiule di gomma. Le mani erano coperte da guanti neri. Anche l'azzannato indossava una calotta. Un lungo tavolo era stato aperto e accanto era stato accostato un tavolino quadrato con un'unica gamba lucente. In quel momento il cane detestò più di ogni altra cosa al mondo l'azzannato e soprattutto lo detestò per gli occhi che aveva quel giorno. Per lo più baldanzosi e sinceri, quel giorno cercavano invece di evitare in tutti i modi lo sguardo del cane. Erano ansiosi, falsi, e nel loro profondo s'annidava qualcosa di malvagio, di abominevole, se non un vero e proprio crimine. Il cane lo guardò con espressione oppressa e tetra, si rifugiò in un angolo. «Il collare, Zina!» proferì Filippa Filippovich a voce bassa. «Ma bada di non farlo agitare!» A Zina istantaneamente vennero esattamente gli stessi occhi abietti dell'azzannato. Si accostò al cane e con gesto chiaramente falso lo accarezzò. Il cane la guardò con angoscia e disprezzo. «Che vi piglia? Siete in tre! Fate pure di me quello che volete, ma vergognatevi! Almeno sapessi che cosa avete intenzione di farmi!» Zina sganciò il collare. Il cane scrollò la testa, sbuffò. L'azzannato si erse dinanzi a lui emanando un disgustoso odore nauseabondo. «Che schifezza! Perché sto così male? Ho la vista annebbiata!» pensò il cane e rinculò per sottrarsi all'azzannato. «Presto, dottore!» proferì Filippa Filippovich impaziente. Nell'aria si levò un odore dolce e pungente. L'azzannato, senza levare di dosso dal cane gli ansiosi occhi canaglieschi, tirò fuori da dietro la schiena la mano destra e rapido gli piazzò sul naso un batuffolo di ovatta umida. Sharik trasecolò. La testa prese a girargli leggermente, ma egli ancora riuscì a rinculare. L'azzannato con un balzo gli fu addosso e all'improvviso gli coprì tutto il muso con l'ovatta. Subito mancò il fiato, ma il cane ancora una volta fece in tempo a liberarsi. «Scellerato!» gli balenò nella testa. «Perché?» E ancora una volta gli coprirono il muso. A quel punto, in modo del tutto inatteso, nel bel mezzo dell'ambulatorio apparve un lago con sopra delle barche su cui stavano dei cani dell'oltretomba, rosei, allegri e inauditi. Le gambe furono come private delle ossa e s'afflosciarono. «Sul tavolo!» Con voce allegra rimbombarono da qualche parte le parole di Filippa Filippovich e si propagarono in zampilli color arancione. Il terrore cessò, fu sostituito dalla gioia. Per un paio di secondi il cane, che stava venendo meno, volle persino bene all'azzannato. Quindi il mondo intero si capovolse e l'ultima cosa che il cane percepì fu una mano fredda ma gradevole sotto al ventre. Poi più nulla. Corrado Guzzanti ha letto Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.